l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio. Io sono Lucia Cappellucci e quelle che seguono sono le nostre notizie silenziose della settimana. Da www.eilmensile.it. Incendio di ecoballe nel Casertano. 4 giorni di cenere e fumo. Del 20 aprile 2012 di Lorenzo Giroffi. Nell'indifferenza preoccupante di buona parte del paese, pezzi d'Italia continuano a bruciare. In un piccolo paesino della provincia di Caserta, di quelli custoditi dai monti, è divampato un incendio che per 4 giorni ha ricoperto di fumo i cieli di Bellona. Qui, dal 2008, c'è un sito di stoccaggio che accoglie rifiuti provenienti da industrie ed enti pubblici. La struttura è gestita dalla società Ilside, che fa capo alla Iaco Rossi, lo stesso colosso che nel 2006 fu inquisito per traffico illecito di rifiuti. Risposte in vista sembrano non esserci, dal momento che l'ARPAC, Agenzia Regionale Protezione Ambientale, deve ancora rendere pubbliche le sue analisi. Ci sono tante domande irrisolte e tante incertezze sui numeri del disastro. Le prime fonti parlavano di combustione di soli rifiuti urbani non pericolosi, che erano destinati allo stabilimento di tritovagliatura ed imballaggio di rifiuti presente sempre nel Casertano a Santa Maria Capua Vetere. Tali fonti erano state supportate anche dal sindaco di Bellona, Giancarlo Della Cioppa, che nel 2008 fornì le autorizzazioni per il sito. Successivamente, sia per la mole impressionante di fumo che per le prime testimonianze sul posto, si è compreso che nell'incendio delle cosiddette ecoballe, che ancora non si è capito quali sia la loro componente eco, c'erano rifiuti anche di altro tipo, plastica, pneumatici, latta di vernici. Il sito dell'Ilside gestisce lo smaltimento di rifiuti solidi misti, solidi urbani e speciali, forse accumulati in abbondanza, di certo non sorvegliati sufficientemente, dato che il contenimento dell'incendio è stato nullo e l'area non era sorvegliata da nessun personale di sicurezza. Ufficiosamente l'ASL di Caserta ha rassicurato sui numeri dell'emergenza, che non avrebbe dovuto causare danni eccessivi, anche se i 4 giorni di incendio, la combustione di 450.000 tonnellate di rifiuti, la pioggia di questi giorni che ha cosparso ancor di più le ceneri, non sgomberano il campo dal terrore di diossina. Bellona è stata chiusa in una cappa grigia, che oltre a togliere l'aria ha eliminato ogni campo visivo. Il primo cittadino ha emanato un'ordinanza di sgombero per le 80 persone presenti nelle vicinanze del sito e si è raccomandato con la cittadinanza di utilizzare precauzioni. In questi giorni si è potuto circolare solo con mascherine e le case sono rimaste sigillate. Nella coltivazione dei campi e nella pulizia degli alimenti assunti, i vigili del fuoco hanno attuato la tecnica del soffocamento del fuoco, buttando delle enormi quantità di terriccio sui cumuli incendiati. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha rassicurato che in queste ore dovrebbero essere in grado di spegnere definitivamente le fiamme. La mole di fumo intanto sta iniziando a scemare. L'area interessata è di 10.000 metri quadri. Intanto, le domande che restano si spera non svaniscano come il fumo di queste ore. Sarebbe utile fornire l'elenco completo di tutte le aziende che confluiscono nel sito dell'Ilside per capire i reali pericoli ed effettivamente quali materiali sono andati bruciati. La natura dolosa dell'incendio, sospettata da molti perché la criminalità avrebbe interesse a trasformare le ecoballe in cenere, considerata rifiuto speciale quindi con un costo di smaltimento superiore, dovrà avere immediati riscontri da parte delle autorità giudiziarie. Soprattutto, sarebbe giusto per gli abitanti di un territorio già martoriato ed umiliato da tutte le istituzioni capire quali rischi potrebbero sorgere dopo il disastro di questi giorni. Una catastrofe poco raccontata, perché forse non affascinante quanto la nave Concordia, perché quegli abitanti non hanno storie esotiche da raccontare, ma che forse meriterebbe un'attenzione ed una preoccupazione differente. Sempre da www.eilmensile.it. Immigrazione. Parigi e Berlino all'Unione Europea. Modifichiamo Schengen. Del 20 aprile 2012. Parigi e Berlino hanno chiesto insieme alla presidenza danese dell'Unione Europea la revisione degli accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone e delle merci per consentirne la sospensione occasionale per periodi di 30 giorni. Nel caso dell'approvazione potrà essere reintrodotta la temporanea chiusura delle frontiere e il ripristino dei controlli. Giovedì prossimo, in Lussemburgo, durante la riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea, sarà presentata la proposta. Addirittura, secondo la stampa tedesca, il ministro degli interni francese e quello tedesco avrebbero firmato una missiva da inviare all'Unione Europea. Riferendosi al ripristino dei controlli, i due ministri hanno spiegato che la misura dovrebbe essere adottata solo come ultima ratio e rimanere in vigore per un periodo di tempo limitato. Il problema, a loro dire, sono le frontiere a sud e all'est dell'Europa, inefficaci nel contenimento dell'immigrazione illegale. Sempre secondo i giornali tedeschi, la decisione in merito non potrà essere presa prima del prossimo mese di giugno. Nel 2011, la Danimarca aveva tentato di reintrodurre i controlli alla frontiera con Germania e Svezia per contrastare l'immigrazione clandestina, ma il progetto era naufragato dopo l'insediamento lo scorso autunno del governo di centrosinistra. L'eco del silenzio. Silenzio. Da www.elmensile.it, Colombia, nasce il movimento che sfida la vecchia politica corrotta. Del 20 aprile 2012 di Stella Spinelli. Un nuovo movimento sociale e politico sta cercando di farsi spazio nello scenario nazionale nell'intento di rivoluzionare la maniera di far politica in Colombia. Si chiama Marcia Patriotica e nasce dalla confluenza di organizzazioni sociali e popolari che hanno deciso di avanzare, conformando un movimento il cui obiettivo è rivendicare temi abbandonati dalla politica tradizionale, quali l'educazione, la terra, la democrazia, il lavoro degno e la salute. A spiegarlo è Andrés Gil, dell'Associazione Contadina della Valle del Fiume Cimitarra, uno dei gruppi più strutturati e determinati del paese, vincitore anche del Premio Nazionale di Pace 2010. Sara Gil, infatti, insieme a David Flores, leader degli studenti dell'Università Nazionale, il portavoce della marcia. Sono più di 1.500 in 26 dipartimenti del paese le associazioni che fanno parte di questo grande movimento, spiega. Vogliamo sovvertire la tradizione politica del caudillismo. Tutti noi apparteniamo a un collettivo che non vuole avere a che fare con la creazione di singole personalità. Avremo solo dei portavoci che ruoteranno, perché tanti e diversi sono i leader coinvolti. La marcia, che sarà lanciata ufficialmente domani e domenica, ha già ottenuto l'appoggio di personaggi chiave del mondo politico colombiano. Si va dalla senatrice Gloria Inés Ramírez del Polo Democratico Alternativo alla combattiva Gloria Cuartas, ex sindaco del martoriato Apartado ed ex senatrice appartenente all'ONG Colombianos y Colombianas por la Paz, della quale è leader Piedad Córdoba, fautrice del più costruttivo dei dialoghi mai tentati con le FARC e anche lei strenua sostenitrice del nuovo movimento. A finanziarlo una grande mucca nazionale, come la definisce Gil, nella quale le distinte delegazioni regionali hanno concentrato i propri sforzi. Con questo metodo abbiamo racimolato un milione di buoni per un valore di $5.000, spiega. E questo dimostra che unirci per uno stesso fine è la strada per far tornare grandi le nostre lotte. Ci hanno più volte avvertito che per ottenere visibilità occorre molto denaro. Ma che sia chiaro che se questo significa scendere a patti con oscuri interessi, noi scegliamo di non farci pubblicità. Un movimento, questo, che già dimostra di restare indigesto al governo e quindi all'esercito. Ancora prima dell'uscita ufficiale, infatti, cominciano a rincorrersi le voci che si tratti di un partito filo FARC, la tipica accusa che in Colombia si usa per screditare personaggi scomodi e per lasciare libera azione a chi li vuole eliminare. Ad accusare Marcia Patriotica di essere infiltrata della guerriglia è stato infatti il generale Sergio Mantilla, comandante dell'esercito, che non ha certo perso tempo. E a diffondere questa lettura forzata degli eventi è stata Colombia Stereo, l'emittente ufficiale dell'esercito. Questo non ci stupisce, precisa Flores, perché ogni volta che c'è un'iniziativa grande, importante, che minaccia la politica classica, arriva questo tipo di segnalazione. Ma noi colombiani siamo stanchi che 3 giorni prima di ogni mobilitazione sociale appaia un computer sequestrato dagli 007 militari, nel quale ci sono documenti che ci accusano di quello o di quell'altra cosa. Chiediamo al governo che questo non accada più e facciamo ricadere su di lui la responsabilità di qualsiasi cosa accadrà ai membri della Marcia Patriotica. Invitiamo, aggiunge Gil, il presidente Santos e l'establishment militare a dimostrare quanto stanno affermando, ma li invitiamo anche a conoscerci e a sedersi per ascoltarci. L'atteggiamento dell'esercito, secondo quanto denuncia la delegazione Norte de Santander, che ha subito direttamente le pesanti accuse della radio militare, dimostra che il suo interesse, quello dello Stato, non è altro che azzittire l'immensa moltitudine di colombiani stanchi delle invenzioni per depistarci dalla verità e continuare a governare senza problemi. Ci appelliamo alla comunità internazionale affinché seguano costantemente questa nostra iniziativa, fatta da un popolo che cerca di uscire democraticamente dal conflitto senza altro sangue venga versato. tra sabato e domenica dunque, nel centro convegni Gonzalo Jiménez de Quesada di Bogotà, 3.500 delegati di tutto il paese e 100 delegati internazionali si riuniranno per costruire i principi del movimento. Lunedì, invece, si terranno appuntamenti culturali, artistici e politici. Marceremo fino a Piazza de Bolívar, dove con allegria, canti e balli battezzeremo questo movimento sociale, spiega Gil. Ci sarà infatti un gran concerto, sarà una giornata di festa, per dar vita a un movimento che promette di fare una politica diversa. L'eco del silenzio. Silenzio. Ed ora concludiamo con una notizia che riguarda una compagnia italiana e che nasce in Italia ma valica i confini per diffondersi e andare ad interessare un po' a tutto il mondo. Da www.eilmensile.it, Italia, al via la campagna Stop Enel per un nuovo modello energetico, del 20 aprile 2012. Enel è la più grande società elettrica italiana e la seconda in Europa per potenza installata. Nel 1999 è stata in parte privatizzata e oggi è quotata in borsa e conta 1,2 milioni di azionisti. Per il 31% resta però di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi dei cittadini italiani, che hanno dunque il diritto di dire la propria. Sono 40 i paesi dove Enel opera sia in progetti che riguardano l'energia elettrica, sia in piani che riguardano il gas, e con il definitivo acquisto della società elettrica spagnola Endesa nel 2009 ha ereditato impianti e progetti in numerosi paesi dell'America Latina. Ed è l'evidente retaggio coloniale che sta caratterizzando la sua politica, con conseguenti impatti socioambientali devastanti, che ha spinto una serie di ONG italiane a lanciare un appello per fermarle e imporle un nuovo modello energetico. E l'arroganza di Enel si è manifestata anche in Italia, verso i territori interessati ai suoi progetti e verso gli abitanti coinvolti. Nonostante l'immagine verde ed impegno verso la sostenibilità che la multinazionale italiana si affanna a comunicare attraverso i suoi messaggi promozionali, la realtà è ben diversa, spiega il testo dell'appello. Enel continua a costruire centrali a carbone, nonostante gli impegni di riduzione dell'emissione di gas serra, e usa, in maniera ingannevole, terminologie come carbone pulito. Ciò è possibile grazie ai meccanismi cosiddetti flessibili del protocollo di Kyoto, che consentono alle imprese di continuare a inquinare, assegnando veri e propri permessi di emissione in cambio della costruzione di impianti di energie rinnovabili. Ma l'energia può essere considerata verde solo ad alcune condizioni, non quando rischia di distruggere ecosistemi incontaminati, come nel caso del progetto Hydrolysen della Patagonia cilena e dei progetti previsti sulle nostre Alpi, o quando calpesta i diritti, le economie locali e l'accesso all'acqua dei popoli indigeni e delle comunità contadine, come avviene in Guatemala e in Colombia. L'energia, prosegue il testo, non può essere considerata verde o rinnovabile quando prosciuga le falde acquifere, emette sostanze dannose per la salute dei cittadini o li espone a rischi incalcolabili, come nel caso della geotermia, sulla Miata e del nucleare in Slovacchia o in Russia. Per tutte queste ragioni, dunque, Enel è responsabile di promuovere in Italia ed esportare all'estero un modello energetico insostenibile e obsoleto, aggravato da un atteggiamento autoritario e irrispettoso dei territori locali. Si tratta infatti di un modello basato su una produzione centralizzata per mezzo di grandi impianti, imposti alle comunità locali e velati da compensazioni economiche elargite ai comuni e ai governi compiacenti. È nei grandi cantieri, spiegano nel documento, che si annidano la corruzione, la speculazione, il conflitto di interesse e si realizzano i profitti maggiori, a scapito dell'ambiente e dei diritti delle comunità. Un modello di produzione finalizzato non a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a garantirne l'approvvigionamento energetico, ma ad alimentare l'industria estrattiva e un'economia basata sul saccheggio e sullo sfruttamento illimitato delle risorse. Un modello che infatti sta generando conflitti ambientali e sociali con tutte le comunità locali che sono costrette a subirlo. Basta guardare cosa sta accadendo nel cuore della Patagonia cilena, con il progetto Hydrolysen, nel municipio indigeno di San Juan, in Guatemala, nel municipio indigeno di Panguipulli, sempre in Cile, nel dipartimento di Huila, in Colombia, a Porto Romano in Albania, a Mohovce in Slovacchia, nel distretto di Galati in Romania e a Kaliningrad in Russia, Ma è sufficiente. Anche restare a Civitavecchia, sul Monte Amiata, sulle Dolomiti, a Porto Tolle, a Brindisi, a Bastardo, a Fusina e a Genova. E la risposta che l'alleanza tra impresa e governi ha troppo spesso riservato alle comunità locali, che si battono per difendere il territorio, è repressione, violenza e criminalizzazione attraverso leggi speciali. Noi vogliamo un altro modello di produzione, distribuzione e gestione dell'energia e di definizione delle priorità. Un modello reticolare, decentralizzato ed efficiente, basato su impianti di energia rinnovabile di piccola scala, che preveda l'effettiva partecipazione delle comunità locali nei processi decisionali di pianificazione e gestione. Per questo, la nascita di una campagna italiana che promuoverà anche un modello energetico alternativo, basato sui diritti umani e sulla difesa della salute e del territorio come bene comune. Una campagna che promuoverà un'analoga campagna internazionale, che metta in rete le comunità locali, i movimenti sociali e le associazioni coinvolte nei diversi conflitti. Come primo appuntamento ci incontreremo a Roma il 29 aprile, in un'assemblea internazionale alla quale parteciperanno, oltre ai comitati italiani, rappresentanti delle comunità e movimenti locali dal Cile, Guatemala, Colombia, Albania, Romania e Russia. Il 30 aprile, giorno dell'Assemblea degli azionisti, siamo di fronte all'Enel per una conferenza stampa di presentazione della campagna. Anche per questa settimana è tutto. Da Lucia Capparrucci, per l'Eco del Silenzio e Radio Libriamoci Web, a tutti voi l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'Eco del Silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.